America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. L'uragano Irma continua nella sua corsa verso la Florida, una corsa a tappe perché, come sappiamo, ha lasciato distruzione dietro di sé, conseguenze catastrofiche. Il 95% di Barbuda è ridotto a un cumulo di macerie. San Martin, di nuovo, circa il 95% dell'isola, così almeno hanno detto le autorità locali, è stato distrutto. E lo stesso è successo per San Bart. E sono delle isole straordinarie, delle isole bellissime naturalmente, dunque sarà molto triste poi fare un bilancio di questi paradisi tropicali che rischiano di andare perduti. Ecco, l'unico elemento positivo è che questo uragano ha risparmiato Porto Rico, si sta avviando verso la Florida lungo il mare e dunque anche Haiti sarà colpita, però sarà colpita marginalmente, non dall'occhio di questo uragano, e lo stesso per Cuba. Qual è invece l'aspetto negativo per la Florida? È che restando sul mare o avendo contatti con delle isole minori, l'uragano resta fortissimo perché sul mare accresce la sua potenza o comunque la mantiene, e per cui è ancora un forza 5, resterà forza 5 fino al passaggio tra la notte di oggi e domani mattina su Cuba, e poi l'impatto atteso con Miami. A quel punto, attenzione, a quel punto l'uragano sarà leggermente meno forte, dovrebbe essere di una forza 4, non di una forza 5, e l'appuntamento con Miami era prima al mattino di domenica, a questo punto è stato spostato più avanti alle 2 del pomeriggio di domenica. Intanto l'esodo continua, un esodo, devo dire, biblico, perché tutti si stanno spostando, nessuno, dopo quello che è successo a Houston, soprattutto dopo quello che è successo a Houston, nessuno vuole correre il rischio di restare a guardare, di non prendere delle precauzioni adeguate. Ecco, l'impatto a partire da Miami Beach, che insomma è un simbolo del turismo americano, poi proseguirà. Di nuovo, il percorso centrale dell'uragano doveva essere lungo la costa orientale, però più sul mare. Invece a questo punto si è spostato all'interno della Florida, lungo la Florida centrale, e toccherà Orlando, toccherà Jacksonville. Attenzione, queste sono le informazioni che abbiamo in questo momento, poi naturalmente da qui alle prossime ore, ai prossimi giorni, le cose potrebbero anche cambiare. E dunque, qual è il problema? È che ci sarà una devastazione nella Florida centrale, che è uno degli stati americani, proprio in questa sua parte centrale dello stato, che ha avuto uno dei più importanti sviluppi economici, proprio come il Texas. Vi raccontavo ieri qual è stato l'impatto sull'economia texana, un'economia che cresceva anche al 3,4, al 3,5%. Ecco, questo è il quadro generale di quello che sta capitando in questo cataclisma. È il caso di definirlo in questo modo, un 1-2 che ha travolto l'America, prima in Texas e poi adesso lungo i Caraibi e nelle vicinanze della Florida. Sentiamo Brock Long, che è il capo della FEMA, cioè la protezione civile americana. The states of Florida, you know, Georgia, South Carolina, and North Carolina all need to be monitoring this closely, and we're already in good communication with all of those states and working with them to be prepared. Ecco, avete sentito Long, il tono naturalmente preoccupato, concitato, dice: non è solo la Florida ad essere in pericolo, è tutto il sud-est degli Stati Uniti. Tutto il sud-est deve fare attenzione, in particolare la Georgia, la Carolina del Nord, la Carolina del Sud e altri stati importanti sempre per l'economia americana. Ecco, io credo che l'impatto, una volta che si arriva in Georgia, in Carolina del Nord, in Carolina del Sud, sarà molto inferiore. Dovremmo essere già una forza 3, una forza 2. A quel punto non sarà più un uragano, ma Irma sarà stata ridotta a tempesta tropicale, a tropical storm. Però una tempesta tropicale, come sappiamo, può lo stesso produrre danni, può lo stesso paralizzare anche per delle giornate intere l'economia di questi stati. Ecco, una delle cose interessanti che ci ha raccontato Long è che gli Stati Uniti sono stati colpiti da un uragano di categoria 5, quindi come Irma, come quello che si sta per abbattere sulla Florida, solo 3 volte dal 1850. Io so che c'è qualcuno che mi ascolta anche dalla Florida, magari in podcast ricevo delle note molto carine, molto simpatiche. Bene, io dedico questa trasmissione a coloro che mi ascoltano proprio dalla Florida, agli italiani, agli amici italiani che sono in Florida, e anzi, se vogliono mandarci dei messaggi possono farlo direttamente qui ad America 24. E naturalmente è preoccupato anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Sentiamolo. We're very concerned. We are. This is something that is probably bigger, not as much water, but much more power than Harvey. Sono molto preoccupato, siamo di fronte a venti mai visti. Il passaggio dell'uragano sarà devastante, peggiore del previsto. Miami deve prepararsi al peggio. In questo caso Trump ha anche un interesse personale in Florida, nei Caraibi ci sono sue proprietà. C'è la Casa Bianca d'inverno a Palm Beach, Mar a Lago, che non è troppo lontana da Miami Beach. Però i problemi per Trump sono anche di politica interna. Rapidamente credo che sia il caso di darvi un po' un quadro di quello che sta capitando, perché poi l'America comunque va avanti e non c'è soltanto l'uragano. Sentiamo. President, quote, blindsided Republican congressional leaders by quickly agreeing with Democrats on a plan to tie funding for Harvey recovery to a 3-month extension on the country's debt limit. Ecco, qui sono i repubblicani che ieri sono andati su tutte le furie per un accordo che Donald Trump, devo dire, sorprende sempre questo presidente, ha fatto coi democratici. Ecco, lo scontro è nato dopo che il Senato americano ha approvato un controverso accordo bipartisan, è stato firmato tra il presidente e l'opposizione democratica al Congresso. L'idea era di estendere sino a metà dicembre il tetto del debito pubblico, questo per consentire al governo americano di andare avanti, per evitare il default, lo shutdown. Invece ci sono dei repubblicani molto aggressivi, estremisti in Parlamento, che vorrebbero il confronto, vorrebbero chiudere il governo per poter far leva sui democratici. In realtà chiunque è stato l'agente della chiusura del governo ha sempre fatto male dal punto di vista di reazione del pubblico, dal punto di vista elettorale, per cui in questo caso devo dire Donald Trump ha ragione, e in cambio di questa sua concessione ai democratici ha ottenuto subito l'appoggio per fondi extra per l'uragano Harvey, che sono saliti dai 7 miliardi originariamente stanziati già a 15,3 miliardi di dollari. Non solo, Trump ha anche fatto capire, dopo la rivolta nazionale che c'è stata per i Dreamers, di cui abbiamo parlato a lungo nei giorni scorsi, ha fatto capire che se per caso il Congresso non dovesse trovare la soluzione, bene, la soluzione in qualche modo la troverò io. Ecco, queste sono posizioni di compromesso che alcuni della sua base e alcuni dei repubblicani più irriducibili non condividono. Ecco, fra questi però lo speaker della Camera, il presidente della Camera Paul Ryan, invece in un'intervista che l'ha rilasciato ieri, è stato quanto comprensivo. Cioè, il presidente non voleva che vi fosse una guerra politica nel bel mezzo della reazione all'emergenza. Abbiamo due uragani, abbiamo un paese in crisi, ci mancava solo che ci mettessimo a litigare per questioni politiche di bassa manovalanza. Ecco, qui Trump emerge, devo dire, come un leader che sta cercando di capire come muoversi in questa complessa capitale. Ecco, sul suo fronte ci sono anche dei problemi sul Russiagate, ci sono stati degli strascichi sul suo coinvolgimento, ma come avrete visto forse dalle notizie, qui è spuntata anche la storia su Facebook, perché proprio Facebook ha rivelato all'autorità USA che la Russia ha aperto 470 conti falsi su cui ha fatto circolare $100,000 di pubblicità che in qualche modo poteva essere favorevole alle tesi del presidente. Dunque ci saranno anche gli uragani, ci sarà la tragedia americana che potrebbe avere un impatto sull'economia, perché sappiamo che alla fine un danno economico non da poco ci sarà, eppure le inchieste procedono e a un certo punto arriveranno anche loro alla loro conclusione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Devo dire, stiamo passando questo periodo terribile. Irma in arrivo, la Florida trema, e dunque di Frank Turner, The Next Storm, la prossima tempesta. We had a difficult winter. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Per allora avremo un bilancio, speriamo, non troppo devastante di questo impatto, di questo uragano Irma che si sarà abbattuto domenica sulle coste americane, su Miami.